Tanto che un romance uccide un po' di persone. Uccide, le rende unconscious. E gli altri scappano con la coda tra le gambe, no? Se non prima di averci dato un bracciale e di aver promesso di non rompere più i coglioni a noi, avvisandoci di come ci siano altre potenze molto più cattive di loro, come se non fossero la mafia. Ok, fine riassunto. Ma alla fine la mafia lavora per i soldi. Si sa che finché c'hai i soldi va tutto bene. Esatto. Sono molto contento di questo riassunto, perché hai detto un sacco di cose che io avevo completamente dimenticato. Però ci sta, che siete nella chiesa dopo il combattimento, quindi siete stanchi, chi più chi meno. Qualcuno di voi c'ha una manciata di punti vita, quindi ciao. No, Adonis è medikittato, quindi sei full vita e non hai più un cazzo di mana, fatica, roba del genere, credo. Comunque c'è molto poco. Mif, se ti ricordi, hai un punto vita e una corazza di legno, che è l'unica cosa che ti tiene da questo lato del mondo. Però un secondo, io dovevo tirarti, io ti ho tirato un D20, Bianic, perché dovevo quanto fare hai fatto? Delle robe, ma non mi ricordo, guarda Roll20. E comunque era, hai fatto 4. Ok. Hai ottenuto roba per un valore totale di 4 monete. Ah. Cioè, i tizi incappucciati lasciano oggetti di vario genere. Poi avevo detto l'ultima volta, quando sarà il momento andiamo a vedere che cosa sono. E provo. Il momento roba... è oggi e tu non sei pronto, vero? No, sono prontissimo a dirvi che sono strumenti che potete vendere al mercato. Più qualche effettiva moneta. Sono oggetti di valore commerciale che potete vendere al mercato. E non devo scegliere spell, non siamo saliti di livello. No, era solo per vedere quante monetine darti. Erano 4 monetine. Ah, avete tutti ottenuto dei punti per aver vinto il combattimento, che potete o meno distribuire, cioè quando volete. Io l'ho già messo la volta scorsa, vero? Boh. Ce n'hai ancora uno spare che... Sì. C'è un motivo. Sì. E... sì, boh, cioè non serve che li spendiate subito, però ce li avete. Ok. Ora si è occupata di guarire il vescovo manualmente, senza usare il medikit. Ed è appunto in un angolo della chiesa, cioè a fianco alla porta più che in un angolo, che lo sta medicando e controllando. E ditemi voi cosa volete fare. Penso che Mif strisci verso il medikit comunque. Madonna. Cioè, quelli della chiesa. Boggia. Quelli della chiesa, come vi ricorderete, sono caricati dal vescovo, quindi sono gratuiti per la gente che viene a utilizzarli. Anche lì stava preso dei danni, fai. Sì. Anche lì sta proprio pinquan. Ok, siete full vita per quello che potete avere oggi, che poi andiamo a vedere quant'è. Dovrebbe essere poco. Dovrebbe essere poco. Magari potevo segnarmela sta cosa. Comunque credo che Mif vada a 9 di vita, perché aveva rollato una merda. E Lieto va a 12. Sì. Cazzo, quanto avevo di mana? 10 era, giusto? Ottima domanda. È 10, sì, secondo me era 10. Il medikit recupera anche il mana? No, il medikit non ti recupera il mana. Cazzo! Assolutamente. Non recupera né mana, né fatica, né altro. Recupera solo i punti vita. E anzi, quando usate il medikit per guarirvi, notate che ora alza un sopracciglio nella vostra direzione. Dici. Ma... io credo stessi dormendo. Come vi hanno fatto del male? Colpa mia. Sì, dico le vostre ferite, come ve le siete fatte? sono fisiche, mi pare, basta? Non ho usato sì, magia? Esatto. Basta. Rigenerare il sangue coi medikit ha un effetto collaterale, cioè che il sangue generato col medikit non è sangue vero e quindi vi indebolisce. E a lungo andare crea una sorta di dipendenza perché dovete continuare a generare il sangue con quello. Quindi sarebbe meglio prendere del sangue da una persona viva. Sarebbe meglio rigenerarvi in modo naturale. Più naturale di una persona che sta respirando. Sì, sì, sì, quello che vuoi di metodo naturale. Mangiare una bistecca, scuoiare un cristiano, quello che vuoi. Pensavo alla flebo da un cristiano, però. Sì, sì, sì. Tipo, Mif che ha 2 HP di vita in questo momento, che guarda ora, tipo, con la faccia tumefatta, visto che l'altro l'ha pestata a sangue, dico, ok, io penso di soffrire, non esistono le concussioni, ma solo per il meme, penso di star soffrendo di una concussione cerebrale, ok? O vi fai qualcosa in questo momento, o io utilizzerò il medikit. Sui danni interni divertiti, è più se avete sanguinato molto, tipo... come ho fatto col vescovo. Ok. Puoi rigenerarlo tu? Or... Vedi che si guarda la mano, muovendo le dita, e dice... Sì, un altro paio di magie riesco a farle. E allora se lei usa il medikit, io prendo la pinta di sangue. Ti facendo di avvicinarti. Attenzione, a me ha palpato il seno, chissà cosa palperate. Oh mio Dio. Ma lo dice lì. È un problema. Guarda. Chiedo sigillo, lo dice. Dove ti fa male? Il costato, più o meno. La spalla, il costato. Sembra tipo una mossa, non dico di karate, ma di arti marziali orientali generiche. Proprio da film di serie C, da un colpo. Matrix. Sì, esatto. Okay. E una specie di onda di luce ti travolge, ti manca il respiro per una frazione di secondo e poi senti proprio le costole scrocchiare, però in modo non doloroso, cioè come se stessero tornando al loro posto. Ok, ok. Clock, clock, clock, clock. Non è piacevole, ma non ho subito danno. No, no, anzi, è piacevole nel senso che se prima avevi un dolore, con questa cosa qua ti passa. Ok. Il gesto in sé è traumatico, cioè ti ha tirato un colpo. Oh, no. Sulle costole rotte. Sì, cioè, fa male. Però fa male l'impatto, non tutto il processo dopo. Oh, ok, ok. E niente, Mif invece si rigenera con quella cosa lì, che quindi ti fa guarire anche dai fulmini. Oh, sì, no, segni... ma i fulmini me li ha guariti lei, ora. Sì, te l'ha rimasto lievemente il segno che col medikit sparisce completamente, lasciando la tua pelle pulita e chiara come era il primo giorno della tua vita. Cioè, non tanto, perché sei mezza scura. Vabbè, Dio cane. Che devo fare? Il centauro. Esatto. Bene, ditemi cosa volete fare. La porta della chiesa è rotta, l'avevano sfondata. No, l'avevano aperta. No. L'aveva aperta il vescovo. Ah, ok. Perché gli avevano bussato e lui aspettano. Sì, sì, sì. Sono stati dei gentiluomini. Non hanno rotto la chiesa, poi devo pagare. Vabbè, a parte accattarci a strappi e bocconi, avevamo un piano, avevamo una direzione prima che succedesse questa cosa mena. C'è Adone, che credo sia comunque lì nelle vicinanze, e credo che dovessimo incontrarci con quel contatto di Mif, giusto? E guarda appunto Mif. Il pomeriggio. Che ore sono? Non avete un roba mattina. Ho portato fuori e guardo dove il sole. Grazie. Abbiamo fatto ritardo. Colazione tipo un quarto d'ora fa. Sì, esatto. Infatti. Le 10, non lo so. Una cosa del genere. Fuori, ma è chiaramente acqueato. Grazie al tuo retaggio riesci a capire l'ora esatta, precisa al secondo, guardando il sole. Vabbè. Puoi farlo solo ma 6 volte e poi diventi completamente cieco perché hai guardato il sole direttamente. Però è un bel trucco. Yelos non perdona. Esatto. Lo chiama in un altro modo. E comunque sì, sono circa le 10, cioè metà mattinata. Quindi la colazione l'avevamo fatta, mi pare, dopo questa cosa, però sono abbastanza affamato. Qualcuno vuole andare a pranzo? Ma adesso? E tra adesso che usciamo, che troviamo il posto, paghi tu? 11:30, mezzogiorno, pago io. Cioè, a parte che mi sembra non sei un pezzente, poi comunque. Lo so che non sei un pezzente. Dice non ti risponde, sorride e basta. Puoi togliere le monetine direttamente dal medikit, non è furto. Evitiamo di togliere le monetine dal medikit, potrebbe servirci a noi alla fin fine. O al vescovo. E si gira tipo verso ore e fa... Come sta? Lo portiamo su a riposare? Ci penso io se avete delle cose da fare, tanto... Non credo di avere nient'altro da fare fuori. Volevo continuare a studiare. Qui da sola? Col vescovo. Ho da finire di leggere tutti i breviari che mi ha lasciato. Che ti ha lasciato? Sì. Vabbè. Sarebbe una cosa strana, tanto se successe di nuovo qualcosa di brutto oggi. Sì, non usare i manapenni. Magari. Non lo facciamo dentro. Ora! Tipo, mi fa... Ora, aspettami, voglio essere anche io presente. Leggerò soltanto. Le formule da pronunciare sui manapenni. Esatto. Casualmente a voce alta. Si gira verso Liet e fa... Non lo so, mi sembra di sentire mia madre quando mi dice che mi devo fare un futuro. Gli ho tolto le sopracciglia e sorride. Tipo... Ma Nibel in tutto questo dov'è? Io sono qua, sto ascoltando al momento. Giro un po' l'anello che mi ha lasciato il tizio della corona nera in mano. Per Nibel è un anello, cioè se lo mette al dito praticamente. No, scherzo. Vado da Nibel e... Sarebbe meglio non metterlo proprio così all'aperto, ecco. Sì. Lo ritiro dalla borsa. Lo tireremo fuori in caso ci sia necessario mostrarlo. Puoi appenderlo al collo, poi metterlo dove vuoi, ma proprio al dito così. È tipo il dito di Indicadone. Siamo lì con la visibilità, dai. Il dato Adone si nasconde il dito, ma poi... Le dita, porco dio. Le dita. Due. Ma, tipo, se gliele tagliamo... Be my fucking guest, se volete. Sarebbe il caso di tagliargli il braccio. Vabbè, cioè, l'infezione non è che... Va bene tutto, però cioè, se passa due dita magari gli tagliamo la mano, il braccio e mettiamo tanto. No, ha problemi fino alla spalla, guarda come si muove lentamente. Cioè, tipo, mi fai indicatone come per dire. Luca Tim. Mi avvicino ad Adone dove arriva? E tipo inizia a stoccazzargli la spalla, tipo. Adone a quel punto si tira un attimo indietro e poi dice, guarda che se continui così... Poi realizza che niente, non ha modo di... dimostrare che può infettarlo, però dice lasciatemi in pace, basta, va bene? Io per aiutarti, va bene, fai leggi nel tuo angolino, non è un problema mio. Magari esplode e dopo dobbiamo trovare un modo per... Io no. E fa il segno col pollice. Fino ad adesso quella che ha provato ad aiutarmi... Guarda Belfe, gli fa tipo l'occhiolino. stressate, ho bisogno di Adone. No, niente, dice Adone, dice quella che mi ha provato ad aiutare mi ha fatto questo, e appunto tira fuori la mano metallica e guarda Mif. Ah, io non ti ho attaccato la peste. Non sono sicuro che sia collegato alla peste. Il mio metodo è un pochino più scientifico, però, cioè, stanno tutti. Infezioni partono da un punto, arrivano da un altro, sembra partire da un punto. Se la togliamo prima che... Partire dalla testa, dietro dalla testa. Ma i medikit fixano anche quello. Non ah questo. Sì, ha usato il medikit prima Adone ed è... Cioè, non è cambiato un cazzo. Comunque, Eliete per la sperimentazione. Tipo, se è una roba che va avanti col corpo, se lo ammazziamo e lo portiamo da un necromante, quando ritorna in vita. Mi rolli un di 10, Eddie? Ce la fai? Cioè, sei connesso a Roll20? Sì, dammi un secondo, vedo su Roll20. Per rispondere a sta cosa... Sì, rollo, ci sono, dammi un secondo. Sì. Se lo tenti collabora. Sì, non ti preoccupare. Biani ci ha comprato un D4 bilanciato oggi. Aspetta che lo vado a prendere, deve essere qua. E rolla già un D10 più mente, cioè pulito, senza tutto il resto. Ok, quanto c'ho in mente? Più 3? O 2 o 3? O blu? Sì, dai, più 3. Sì. Eccolo qua. Il miglior di 4 che abbiano mai prodotto. È una botte. Aspetta che non ti sto guardando. No, in realtà è semplicemente di quelli con il numero sul bordino. Zitta. Così dici? Ma perché ho parlato un di 20? Sì, quelli. Non serve che ti mando l'immagine in posto. Hai rollato 20, non hai rollato un di 20. È un di 10 più 3. Quindi hai fatto due errori. Non hai messo la D e non hai messo l'1 invece che il 2. Guarda che se la faccio, che cazzo c'è? Invecchi. Che te la fai, sì, dai. 4 è proprio veramente basso. Se te lo ricordi te bene, se no io non ti dico un cazzo, mi spiace. A me sembra che queste cose non si risolvono, cioè a freddo mi verrebbe da dire che in verità non si risolve la malattia con la morte, però vabbè, tanto non costa niente, andiamo a trovare, a cercare un necromante, t'ammazzo e cosa succede. Non preferisco rimanere vivo, Lieto, grazie. Vabbè, rimane un'opzione più in là se non dovessimo trovare una soluzione che ti piace di più. Credo che se dovessimo arrivare comunque più in là sarebbe opportuno trovare il modo di disfarsi del mio corpo in maniera... Ma quello importante. Non ti preoccupare, una volta che sei andato ci pensiamo io e... Credo si pronunci Mif. Sì, sì, è quello che dice lei. Passa una mano sul viso e pensa... Perché sto passando il mio tempo con questi giovani? Quanti anni ha Adone? 32. Ok, dai. Passabile. Quasi gli anni di Cristo. Dai. A 33 Cristo muore, cioè, quindi ci siamo. Passo. E beh, anche Adone, credo, cioè, di questo passo. Sì. Peccato che nel frattempo aiuto Ora a portare il vescovo e le sue camere. Oh, grazie. Vabbè, quindi... Lo senti respirare affannosamente il vescovo ed è non in coma, ma in un sonno febbrile, diciamo. Uh-huh. E... Boh, sì, cioè, non lo portate di sopra, poi quando tornate di sotto siete rimasti voi quattro, il party. Ho una domanda. Nei romanzi funziona ancora su di lui o l'effetto è sparito? Perché se così volevo fargli tipo un sonno tranquillo. Cioè proprio profondo, così si riposa per bene. Sa che per farlo devi usare l'uso speciale giornaliero. Cioè quello che ce n'hai uno al giorno. Aspetta, posso. Esatto, Arlo? Puoi usarlo così. Vuol dire che poi per tutto il resto del giorno tu non puoi usarlo in quel modo. Vabbè, ma cosa vuoi che succeda? Domanda, costa 4 oppure sì. Visto che è già in... No, costa 4 e fa tutta quella roba lì e lo puoi usare una volta al giorno. Però io ho già usato le romanzi. L'hai usato nella forma che puoi ripetere, che è quella da combattimento. Oh. Ok. Chiedo a Dora a sto punto, visto che lei è il dottore di turno e fa... Nah, si riprende. Sei sicuro? Sì. Sicura? È un po' anziana. Ma figurati. Bene. Nibel è del posto, magari ci può consigliare dove andare. Volentieri. Se mi ricordo ancora qualche posto recente. Allora, Kainoe nello specifico non è un luogo che frequentavi. Conosci i posti, diciamo, turistici, cioè quelli, le grandi taverne che sono lì da tanto tempo. Mirko, stiamo giocando, esatto, grandissimo. Sì, già mutato, grandissimo. E le zone che conosci meglio sono il quartiere sud, quindi bisognerebbe attraversare il centro della città se vuoi andare nei posti che conosci bene. Se vogliamo spostarci un po' più familiare in altre zone. Tanto l'appuntamento è al pomeriggio, quindi abbiamo tempo da perdere al momento. Non è una brutta idea fare una passeggiata, diciamo. Molto bene. Vedete che comunque lo vedo un po' provato in un certo senso, non fisicamente ma mentalmente. Chissà come mai. Se cresci un dito metallico al giorno ti rimangono 8 giorni di vita. Quindi sì, capisco bene che sta malissimo, povero Adone. Chissà perché. Già. Ok, uscite dal tempio. È una brutta giornata, cioè nuvole nere, non sta piovendo, però c'è vento. Giornata di merda. Giornata autunnale come è, a quanto pare, norma da queste parti. Il coltello nella piaga proprio. Sì. E finora la giornata è andata da Dio, c'era proprio incredibile. Anche il clima. Il vialone che avete fatto già qualche volta in questi giorni è mediamente affollato, nel senso avete visto dei giorni in cui era pieno di gente. Ora ci sono solamente le persone che hanno motivo di essere in giro, non c'è gente che sta passeggiando, diciamo. Ci sono lavoratori e gente che deve acquistare cose, che vuol dire che in realtà c'è un po' di gente per strada. Se passiamo davanti a un'edicola, mi prendo il giornale del giorno. C'è quella davanti alla vostra, alla chiesa. Il giornale non ha notizie. Già preso... È la mattina. Ho già preso qualcuno. Penso tu proprio lì, sai? Sì, ok. Penso l'ho già preso, quello di oggi. Sì. Okay, okay. L'abbiamo preso io e te. Ok. C'era il bollettino che diceva che realisticamente Oclic è una città fantasma. Sì, perché pensavo... andato da pensavo fosse il giorno prima, però... pensavo. Sì, no, era sempre questo, solo è passato un botto di tempo Irl. E... quindi sì. C'era il simpaticissimo edicolante genovese. Sì. niente. Vi colpisce relativamente, per quelli di voi che non l'avevano mai visti, che ci sono i soldati che pattugliano, cioè non è che fanno robe strane, fanno il loro mestiere, non vi cagano nemmeno, cioè semplicemente sono lì a guardare la strada, controllare le persone sospette, quindi in effetti un occhio a Nibel glielo danno, però non lo fermano. Voi date meno nell'occhio. Adone sta indossando un guanto? Bella domanda. Domanda, tecnicamente l'ho detto nei giorni scorsi o no? Perché sai che avevo detto che mi teneva la mano. Esatto, stava prestando il guanto. Il tuo, perfetto. Sì, allora ce l'ho. Ok, perfetto. E... nessun'altra cosa degna di nota, quindi semplicemente se non fate qualche stronzata vi lasciano, cioè non vi dicono niente. Mm-hmm. Non vi sto a descrivere troppo il loro stile, comunque la divisa di Scirocco è rossa, poi in base alla città, cioè c'è una parte rossa e l'altra parte dipende dalla città. Ad Apeira credo sia bianca, vabbè, alla nera sono gialli, vabbè, rossa e bianca. Niente, finendo il percorso, la strada principale, arrivate alle mura di Apeira, quindi... Per Lieto è la prima volta che le vedi, se non sbaglio. Per Adone è la prima volta sì. che le vedi. Gli altri invece dovrebbero essere abbastanza normali. Sono delle mura molto alte che cintano la città alta. È costruita su una collina. La collina ha un'elevazione di centinaio di metri. Cioè, non è una roba enorme. Ed è... La salita è molto poco steep. In cima alla collina ci sono le mura, quindi in realtà la città alta non si vede, si vede solo esclusivamente il campanile della chiesa, che è un palo dal punto in cui siete, e proprio la punta in alto del castello, che è rispetto a voi a sinistra, mentre la punta della chiesa a destra. In realtà sarebbero svappate, che voi venite da nord verso sud. Cioè, la chiesa è a ovest e il castello è ad est. Potete qua o seguire la cinta muraria e quindi circumnavigarla, oppure entrare nella città alta, tagliare la strada principale e poi uscire dall'altro lato. Nibel vi spiega sta cosa qua. Quale sarebbe la strada più sicura, diciamo? La più veloce, ovviamente, è tagliare. Girare intorno, non... Date nell'occhio, non c'è nessuno in genere. L'unica cosa è che ogni tanto ci sono piccoli banditi, criminali in giro. Rarissimamente animali. Perché comunque è una zona molto spoglia, non ci sono case, non c'è niente. C'è solo il muro e la collina che scende. Qualche albero, ovviamente. Beh, comunico le opzioni agli altri. Per vedere quale strada vogliamo fare. Beh, ma... Onestamente, se fossi un bandito io non approccerei neanche vedendo te e ti indica Nibel. Per me è indifferente, onestamente. I banditi sono abbastanza stupidi per approcciare chiunque, in realtà. Però noi li meneremo. Eventualmente sappiamo come difenderci. Sì, non sono esattamente un problema. Tre voti a favore del circumnavigare le mura, dottor Adone. Sì... Adone annuisce, dice, d'accordo, circumnavighiamo le mura. Grazie, signor Kaltenfeuer. Allora, le mura sono diroccate, nel senso che certe parti delle mura sono state restaurate per appunto dare un'idea di sfarzo, di bellezza della città, ma in questa parte qua, che è la parte nord-est, ci sono dei punti in cui ci sono proprio dei buchi, sono danneggiate, eccetera, e sono più estetiche, come dire, un ricordo di... dell'epoca che fu. Hanno quasi 2000 anni queste mura, cioè non sono proprio fatte ieri, molto vecchie. E anche la struttura con cui sono fatte non è proprio raffinatissima, cioè sono delle rocce levigate pochissimo e messe una in cima all'altra. C'è una specie di, la chiamerei pasta, che collega le rocce, che non è cemento né stucco, cioè un materiale molto più grezzo, però regge, quindi chi se ne frega. Passano 5 o 6 minuti in cui voi camminate tranquillamente in quelli che sono dei campi non coltivati, cioè c'è una strada di terra battuta che fiancheggia da un lato il treno, la ferrovia, e dall'altro appunto questa zona incolta di alberi, eccetera. Dicevo, passate 5-6 minuti in questo percorso finché non vedete poco più avanti di voi, sotto un albero più grande degli altri, tre persone, con vestiti rovinatissimi, strappati, colorati, cioè uno è vestito di rosso, uno di giallo e uno ha dei vestiti che una volta erano bianchi, ora sono tutti ingialliti e rovinati. Sono tutti e tre seduti per terra intorno a un fuoco magico, chiamiamolo così. Praticamente è un cilindro di pietra, sembra, che fa del fuoco, e il fuoco in sé è di un colore naturale, tra il verde e il blu, cioè le fiamme sono tra il verde e il blu. E vedete che tutti e tre hanno in mano uno strumento di qualche genere. Avvicinandovi sentite una musica, quindi realisticamente stanno suonando qualcosa. E cosa volete fare? Potete ignorarli, girarli intorno in modo da non avere a che fare con loro, passargli vicino, ditemi voi. Boh, Liete è curioso della musica, I guess. Adone invece non è curioso della musica, e Adone dice: vogliamo passare oltre? E facendo come di, cioè, passare appunto distante da quel gruppo. Ma come? Dietro rolla gli occhi al cielo, va bene, va bene. Ma non... scusate, mi sorge spontanea la domanda. Siete in un posto nuovo e non volete scoprire della cultura che offre questo posto? La fauna locale? La fauna locale l'abbiamo già incontrata. Cioè, vedi che gonfia le guance per evitare di ridere. Adone guarda Liv, poi guarda in lontananza il gruppo di persone che suona la musica e dice... D'accordo, andiamo. Non volevo obbligare nessuno, era una domanda che mi è sorta spontanea, insomma. Il bot ha deciso di morire. No, l'ho ucciso io. Ok. No, era semplicemente guardando Ted, cioè non ha nessuna espressione sul viso. Anzi, sta alzando leggermente il sopracciglio a sentirti dire queste parole. Mi fa sottiglia le labbra, si gira verso Nidel e fa: forse è meglio aggirare. Principino qua non vuole, è a corto di energia sociale. Bene. Voi, se volete andare a vedere cosa stanno facendo, non c'è problema, però non impieghiamo troppo tempo. Sì, Biff che prende Lieto, no? E lo strattona. Dai, andiamo. Va bene. Calma. Nel frattempo che sono con Adona, gli chiedo. Io in verità. Cioè, mi cammino dietro a loro. Cioè, possiamo chiacchierare, nel senso, però comunque Adone segue Mip dietro. Sì. Guarda, nel frattempo ti chiedo come va la situazione. Cosa che stavi dicendo prima riguardo al fatto che non è legata del tutto alla pandemia? Diciamo che non sono appunto sicuro che sia legato alla pandemia, visto che fatto per cominciare non si è mostrato in questo modo sulle altre persone che ha conosciuto che si siano ammalate, ma poi il fatto che questa cosa aumenti ogni volta che sogno, direi, mi fa pensare che sia una cosa diversa rispetto alla peste che terrorizza, oh mio Dio, la città dove abbiamo giocato tutti questi mesi. Okeka. Terrorizza Okeka. Ed è una buona cosa o una cattiva cosa che sia diversa dagli standard? Direi che è una cosa negativa, perché vuol dire che se prima avevo una vaga idea su quello che potevamo fare e su quello che poteva succedere, adesso non ne ho nessuna. Non mi piace l'idea di avere questa cosa che non conosco. Nel frattempo mi accendo la mia pipa e sbuffo fumo dal naso. Ho scoperto proprio questa mattina che con le giuste parole, con una semplice moneta, quella che credevo fosse una maledizione, posso usarla come arma. Magari questa cosa vale anche per te. Adone ti guarda un attimo e vedi che il suo sguardo è forse vagamente intristito. Poi dice: da un lato lo spero... Forse lo spero anch'io, che sia una cosa che posso imparare a controllare. Dall'altro, non lo so. Ci sono tante cose che non riesco ancora a comprendere, che non conosco. E odio fare la figura dell'ignorante. Nibel fa uno sbuffo di fumo che è quasi un sospiro e dice: studiamo bene questa cosa e vediamo cosa si può fare. Se riuscirei a sfruttarla in qualche modo, non pensi anche tu che sarebbe meglio? Questo è vero. Poi fa un piccolo sorriso e dice: grazie Nibel. Figurati. Social link aumentato. Mi sta calcolando i tre tizi e sentite che a turno due suonano qualcosa e lo suonano non male, ma sembra che non abbia la più pallida idea di cosa stiano facendo. Cioè, Charles Manson che cerca di suonare jazz, che se rende l'idea. Mi sono detto che ha reso l'idea. E note schizofreniche, scollegate, semitoni, toni strani. E mentre due fanno questa cosa, con strumenti magici, per quanto ne possiate sapere, cioè non sembrano funzionare con corde o fiato, il terzo parla. Cioè, non sta cantando, sta elencando delle parole ai vostri occhi di profani e fate veramente tanta fatica a capire quello che sta dicendo per due motivi. Il primo è che parlano il dialetto del luogo, quindi è proprio molto difficile starlo a sentire. Bisogna, cioè, Nibel lo capisce, gli altri sono esclusi da questa cosa. Ma anche per Nibel le cose che dicono non hanno nessun cazzo di senso, cioè sembra... parole in libertà. Prego. E insomma, abbiamo trovato dell'altra fauna, vedo. Mi aspettavo qualcosa di diverso. Se gli diamo una monetina, fanno anche le capriole. Lieto. C'è ragione, no? Ci proviamo. Ci andiamo, eh? Vedi proprio, visto che si passa una mano sulla fronte, fa... Io penso che farai del gran male se dovessi mettere quella moneta. Però... Ah, ti dici che se la sniffano. Ci sta. Ah. Un commento. Perché grazie a questa cosa che hai detto non devo farti rollare. E noti che hanno gli occhi iniettati di sangue e i baffi, quelli di loro che hanno i baffi, due di loro hanno i baffi, il terzo no, non capisci se sia una donna o se non abbia i baffi per altri motivi. Comunque quelli di loro che hanno i baffi hanno i baffi bluastri. What the fuck? Sono i cacchead di questa città. Miffle, li ha mai visti questi? No, okay. Mai. Cioè, okay, questi tre qua nello specifico? Mai. No, i no, crackhead... no, questi... E stavo proprio chiedendo i crackhead con i... Sai che secondo me non ha mai frequentato i bassi fondi di nessun posto? No, non penso. Quindi secondo me no. Ok. E... spiego brevemente a Miffle cosa sta succedendo a questo punto. No, spiegaglielo in character, per favore. Spiegaglielo in character, infatti. Ah, ok. Vabbè, cioè tipo la gomitata di circostanza. Vedi, e gli indico tipo i baffi, gli occhi iniettati di sangue. Ti sembra una roba normale? Dimmi. No, tipo mi fa no, però ho visto di molto peggio. No, sono d'accordo sul vedere peggio, però cioè, questi sono in una città, seduti, stanno suonando delle note completamente a caso, quello parla una lingua che non è una lingua, siamo leggermente fuori dalla città, ma non siamo in Pacca Puttana, dove veniva Cosmos, cioè dimenticato. Territori Berber, grazie. Non mi veniva la parola. Non siamo nei territori berberi, quindi cioè non dovrebbe sembrarti molto normale. Hai mai visto una cosa del genere? Beh, a Brandica ce ne sono tanti di pazzi. sai com'è, un portone attrae di te. Sì, sì, no, ma questi sono un tipo speciale di pazzi. Cioè, questi non sono nati pazzi. Cioè, alcuni probabilmente sono anche nati pazzi. Però non tutti. Se dovessi dirlo, li guardo un attimo, tipo, alzo un attimo la testa, allungo il collo. Sì, sì, uno è nato matto, gli altri due sono poveri, probabilmente. O hanno fatto brutte esperienze nella vita, non lo so, qual è stato il loro problema. Ho una domanda. Quanto piano stai parlando? Abbastanza, cioè... Ora mi rogli un D10, allora. Ma, tipo, Mif che ti sta guardando intensamente hai e fa... Uno. Un più uno, bellissimo, ho fatto 9. Passato. Passato, posto. E fa... Ma cos'è che si fumano? No, vedi, e tiro fuori, tipo, un malapenny. Non si può, cioè, ci puoi fare un sacco di cose con questo, insomma. E se lo schiacci e ci fai un certo numero di trattamenti alchemici, diventa una cosa molto interessante da usare. Non che io l'abbia mai fatto, eh. Potremmo utilizzarla per tranquillizzare Adone, magari funziona. Ci possiamo provare, sì. No... Che ha un certo numero di problemi. Once again, cioè, gli stanno cadendo i denti a questi. Ah, tutto vero. Quindi non mi sembra il caso di usarlo su Adone. Non in questo momento, cioè, magari per tirarlo su. Oddio, vabbè, a questo punto se devo io. Ci sono anche a pensare. Però nel caso gli prendiamo quella buona, quelli che quella che usano questi. Dietro. Andiamo a mangiare. Ok. Va bene. Domanda, decidete di aggirare, cioè evitarli? Sì, cioè sono... Ok, perfetto, no, per chiarire il punto. E sono fatti come delle mine, quindi non vi notano. Per aggirarli passate vicino alle mura e niente, c'è del rubble per terra, cioè come si dice in italiano, del pietrisco. Terpa, ok. Quello che è. Rocce. Non vi colpiscono... Pezzi di muro. Sì, esatto, pezzi di muro. Non vi colpiscono particolarmente. E... Punti in cui non cresce l'erba. E poi niente, riprende la stessa situazione che c'era prima. Avete superato l'incontro con i tre tossici. Okay. Raggiungete dopo i tre tossici quello che una volta era un torrione di difesa delle mura. In realtà ne avete già attraversati due. Il primo era quello dove arrivava la strada, il secondo era diroccato. Questo è il primo che vedete intero. E a parte il fatto che è molto imponente, non ha niente di che. Notate che la strada si interrompe in corrispondenza del fiume. C'è anche un nome che ora non mi ricordo, quindi non ve lo dico. Per oltrepassare il fiume, o lo guardate o andate, che non è un'idea intelligente come avrete intuito, o andate al ponte, che è un pochino più a nord, dovete fare un leggerissimo detour. Direi che andiamo al ponte. Perfetto. Sì, andiamo, vi sto guidando sulla mappa, vai. Solo quello. Ok, quando vi avvicinate al ponte, notate che c'è la ferrovia che ci passa sopra. C'ha solo un piccolo corridoietto per far passare le persone, quindi dovete proseguire in fila indiana. Anzi, mentre vi state avvicinando, passa proprio il treno, che viaggia a 40 km orari, quindi non è che vi spazza via passandovi a fianco. Cioè, lo vedete passare, un po' veloce. È un treno, normalissimo. È un treno. Che velocità, mozzafiato. Mozzafiato, beh, vabbè, per l'epoca la è. E niente. Quindi mi dite l'ordine con cui attraversate il ponte. Prendiamo l'abitudine a fare questa giornata di cagate. Vado per primo. Perfetto. Poi? Bip. Perfetto. I guess io chiudo con Adone. Ok. Notate che il ponte ha l'architettura dell'impero, cioè quelli di voi che sono familiari. Cioè non c'entra un cazzo con la roba di Apera, è proprio costruito con i crismi, le cose, le caratteristiche imperiali e con i materiali imperiali. Quindi i vostri passi rimbombano perché è fatto di metallo, fanno clang, clang, clang e vibra leggerissimamente. è collegato alle rotaie, quindi quando c'è un treno vibra. E vedete che il ponte passa sopra il fiume, chiaramente, e nel fiume ci sono degli animali, degli organismi, sicuramente. Su una descrizione più accurata di queste creature abbiamo un problema, perché quello che vedete è una testa roditoriforme, cioè simile a una nutria, e sott'acqua, la parte che non vedete perché l'acqua non è pulitissima, quindi è nera praticamente, scuro, sotto vedete un polpo con tutti i tentacoli. Dimmi, Nibel, Ecco a ma voi la fauna di Apeira. questi sono normali, cioè sono sempre qua. Sì, si trovano spesso nell'acqua della zona. Interi nuoti. Carini. Sono commestibili. Sei come i tizi che abbiamo incontrato per strada prima? Probabilmente sì. Wow. Ok, quindi bassi nella scala della commestibilità. Però non sono sassi. Ok. L'unica cosa che aggiungo, decidete voi come utilizzare questa informazione, ci sono tre fiumi ad Apeira. Sono comuni nel fiume che passa vicino alla centrale, sono rari nel fiume, questo qua che è il fiume di mezzo, non ci sono nel terzo fiume che è quello lontano dalla centrale. Chi l'avrebbe mai detto? Lo comunico questa informazione ovviamente Quando tu eri perché. bambino non c'erano, cioè c'erano degli animali normali. Sì. Ok. Ogni momento per fare slender sulle centrali è un buon momento. Rarissimamente ricordi che da bambino c'erano degli animali di fiume, tendenzialmente sempre o rane o cose del genere, capaci di usare la magia. Cioè, quelli c'erano anche quando eri bambino. Fine. Sono una cosa comune, scusa se ti interrompo ancora, sono una cosa comune nel resto del mondo oppure sono una specialità di Apeira, animali che possono usare la magia? È una cosa comune, cioè è più comune nelle zone wild che non in quelle urbane, cioè in quelle urbane è relativamente raro. Non so se Nibel lo saprebbe, Adone lo saprebbe, se ci sono nelle città vuol dire che qualche fenomeno ha comprato un animale magico e poi ha deciso di liberarlo. Quindi sono ferali, non sono... Americano. Sì. Florida man. Ok. E dimmi, Nibel, hai mai visti qualcuno con del metallo? Non che 10 io ricordo. Di per 10 a sicurezza. chi? Però se il master mi permette di ricordare, ricorderò. Scusa, roll. Emente, credo. Pulito. No, fondamentalmente no. No, non più ricordi. Sono da strani di per sé, non ricorderei Ok. se avessi un'altra stranezza. Però sono interessanti. Quanto ci vuole arrivare al fiumiciotto sotto il ponte? Il ponte non è molto alto, è tipo 1,5 metri sopra il livello dell'acqua. Comunque è novembre ed è la stagione delle piogge, quindi il fiume non è in piena, ma quasi. Quindi ha veramente poca capienza in più rispetto a quella che ha adesso. E questa creatura sbuca fuori, cioè con una fiocina lo prenderei, cioè ci arriveresti senza lanciare la fiocina. Ok. Questo qua è uno. Quale dei fiumi è quello più vicino Questo qua è quello alla di centrale? mezzo. Quello di mezzo, ok. Sì, quindi qua non sono comunissimi questi animali. Anche se non siamo vicino alla centrale, non so quanto mi fiderei a entrare nell'acqua. No, e magari troviamo qualcuno con che pesca, con un retino, Sì, una siamo i canna. tossici. Ma al centro della città è un po' difficile, dovremmo andare verso le zone portuali. Adesso, allora magari dopo. Comunque lo teniamo a mente. Come mai sei Perfetto. così interessato a questi animali? No, no, c'è stato un certo numero di. È la prima volta che li vedo questi. Con. da quello che mi dici non sono, cioè sono causati, sembrano essere causati dalla centrale, però in altre centrali ci sono stati degli altri report di cose simili ma non uguali a questo. Ma e sappiamo che vai, e sappiamo che Indicodone, la peste, la malattia, queste modifiche non naturali sembrano venire dalle centrali, quindi potrebbe essere interessante squartarne uno. Sì, questa volta sono d'accordo con te, Lieto. Si sporge un po' per vedere questi animaletti e dice forse sarebbe il caso di interessarsi a queste creature per questa volta. Quindi, chi c'ha una fune? Dio cane. Dobbiamo veramente chiedere ai tossici? Wow. Questa è Sara non che lo chiede, non a Mif. Non andiamo a chiedere ai tossici, possiamo tornarci una seconda volta eventualmente. Okay, ma perché altrimenti noi non ci... cioè, tu ti puoi tuffare, ecco. Non... perché non mi dovrei tuffare io? E perché peggio di così come può succedere? Io tiro fuori la corda dal... ti mettiamo la corda, tu ti tuffi e poi ti vediamo su. È vero, hai 15 metri di corda. Perché dovrei farlo nel nero della corona? Perché sei tu quello che c'ha già questo problema o questo tipo di problema? Perché anche un altro di noi dovrebbe prenderlo. Così abbiamo due problemi. Ma non per quanto sì, gli animali possono aver causato il casino alla centrale, eccetera, non sono stati quelli a creare. Oddio. Beh, comunque non mi tufferò nel fiume per recuperare dei polpi. Va bene, spingono nel fiume. No, che cazzo vuoi? Oh, yes, di merda. Se lo vuoi fare davvero. Tra l'altro, lo vuoi fare davvero? Roll facile, perché Adone non ha statistiche per queste cose. Certo che lo voglio fare, che domanda. Dio cane, che bastardo. Sei proprio figlio di Promezia, Dio cane. Devo due fisico. Due. E in realtà funzionerebbe così. Doveva fare 5, ha fatto 6. Ma vaffanculo. E dal tuo canto ti lascio fare un'azione. Cioè, Lieto ti spinge a tradimento verso il bar. Con me. Lo vuoi afferrare? In che modo? Descrivimi certo. Com'è. Credo che a questo punto, quando mi dà un colpo, io con la mano, con le dita di ferro, lo grabbo per la manica e lo trascino giù con me. Perché raggiungere il colletto mi sembra un po' troppo distante, non ce la farei in tempo, quindi prendo per il braccio e vum, lo tiro giù con me. E più che altro con l'intento di aggrapparmi e non cadere, però se cade, cade anche lui. Ups. Allora, succede questo. Proprio come, quasi come un riflesso, estendi il braccio e ti afferri la prima cosa che c'è, che è Lieto. Ok, i vestiti di Lieto. E Lieto in realtà è muscoloso quanto basta, quindi reggerebbe, ma il tuo peso è off the chart. Sei proprio distribuito male a livello di peso, e questa cosa fa perdere l'equilibrio a Lieto, che cade in avanti con te nel fiume. Bellissimo, godo. Cioè, proprio non per una questione di forza, ok, proprio il fatto che non si aspettava che tu pesassi così tanto in quel punto sbagliato lì. E quindi niente, vedete loro due che finiscono in acqua, avete un'azione a testa. Vengono trascinati oppure... No, vedi che Lieto spinge Adone lo prende e Lieto gli cade dietro. Dura una frazione di secondo sta cosa qua. Beh, io sono morto dentro e quindi prendo la corda e la lancio in acqua. Mif? Mif si mette le mani tra i capelli come per dire che teste di cazzo. Bello. Sono molto contento di questa cosa. Metto una canzone chill perché è finita la parte. Penso che dia, esatto, una mano a Nibel. Ah, ok. Sono un canale di esploratore di Chernobyl che si buttava nell'acqua. Però in senso positivo. Qual è il senso positivo di questa cosa? Il fiume si chiama Kentro, se vi interessa. che entro. Sì. E anzi, se siete... non mi interessasse, cosa fai? Niente, l'ho detto lo stesso. Come caricamento. Se, prende quelle schermate di caricamento dei videogiochi. ci sono informazioni a caso. Sì, sì, sì. A caso. E siete a 5 metri di distanza tra il punto in cui Kentro e Kentosi, che è l'affluente, si incrociano. Sono felice di avervi raccontato questa cosa. Dicevo... Modello 3D di ora che ruota. Sì, sì, sì. E... l'acqua è stranamente viscosa. Densa, cioè liquida, non vi rimane attaccata come farebbe un fluido sticky, ma è pesante. Hefty, hefty. E specialmente per Adone, che avendo un braccio, non dico fuori uso, ma inadatto al nuoto, uscire fuori da questo liquido è veramente faticoso. È proprio una roba strana. Non so se sa nuotare Adone. Nel caso sappia nuotare, è veramente faticoso. Nel caso non sappia nuotare, Adone. Okay, okay. No, credo sappia nuotare solo perché un nobile, dai, lo avrà portato. Cioè, io mi immagino che ogni tanto è andato al lago. Certo, ora mi fate entrambi un roll di nuotare. Dio cane, Adone ha più zero. Io ho fatto 10 nat. Ti vuoi un altro? Sì, sì, sì, grazie. 12 più 2, 14. E quindi vabbè, anche se Adone fallisce, però è per uno. Adone fa nat 1, quindi Adone finisce un po' a picco. Ora tocca a te, Lieto, scegliere se tirarlo su o lasciare che raggiunga il suo creatore. Beh, mi è stata lanciata la corda, se non ho capito male. Sì. E allora afferro uno, afferro l'altro e lo leggo. Allora, sì, stai facendo la scena un po' di Capitan America e un po' di Ercole. Un po' di Spider-Man anche. Pesa da morire Adone, cioè proprio è assurdo che meno male twink, che ho fatto palestra in questi anni, che un twink pesi così tanto. E l'acqua, noti anche te, essere pesante, penso. Difficile da spostare. Sì. E sei messo bene e appena hai assicurato che Adone stia respirando fuori dall'acqua e che la corda sia ben legata al tuo braccio, finalmente giri lo sguardo e noti che a questa distanza dalla tua faccia c'è una nutria che ti sta guardando con la sua faccia da nutria. Ora, io non credo di avere un peluche nutriforme. Non ce l'ho presente le nutrie, abito a Pisa. Eh sì, sì, immagino. Però io credo che possiamo fare così. Torsolo! è una di quelle che volevo? Sì, sì, sì. È proprio quella che hai visto dall'alto. La agguanto. Con quale braccio? Ma di che cazzo? Cioè, no, nel senso, con la terza gamba assicurare Adone tipo con un nodo, così da avere le mani libere. Ok, ci sta. Guardaci giocare a D&D e fai il bravo. Dicevo. Vabbè. Cioè, allora, praticamente, prendi Adone, cerchi prendo Adone, lo tiro su, gli metto tipo intorno alla vita la cazzo di corda, gli faccio un nodo alla buona e lo lascio andare. E ok, quindi rimani in acqua. Sì, sì, sì, e poi voglio agguantare la nutria. Quando fai per estendere il braccio, senti una sensazione sulla mano, cioè parte dal polso, arriva fino al gomito e forse anche sopra. Viscida. Ok, mi impedisce di prendere la nutria? No, però la senti prima di arrivare a toccarla. Non vedi un cazzo, cioè... Ok, no, non c'è niente di visivo. Okay. Sì, sì, sì. Ho uno spirito di autoconservazione. Intanto tirate su Adone voi. Adone c'è lì che sta sputando acqua, sta tossendo, sta cercando di vivere, sai com'è. E vabbè, mi sfilo tipo... Dovrei averci il mantello slash K. Sì. Ok, me lo tolgo tipo e prendo la nutria con quello senza toccarla direttamente. Ok, cioè glielo metti in testa. Sì, la tipo s'accoccia per prenderla tipo... Ok, quando fai questa cosa la nutria come un diglett scompare sott'acqua. E appena togli l'affare, cioè ricompare. Ok, che ti sta guardando. Ora, la sensazione che avevi sul braccio si è estesa al tuo bacino, forse alla tua gamba. E... è chiaramente ora di uscire dall'acqua. E... scelgo di farlo nella maniera, certo, più lieto possibile. Certo. E no, aspetta. E... litogenesi. Sapevo benissimo che avresti fatto quello. Non so perché pensavi. Oh, e paghi con la fatica. Sei a 5 di fatica rimasta. Cioè, sì, hai, ti rimane veramente poco. Ti do l'esperienza, perché comunque. Comunque. E vorrei fare una conca che tira su me, e se riesco la nutria, se non ci riesco è uguale. Sì, sì, sì, fai proprio un piccolo vulcano. Scusami, Eddie, non ho sentito. Adone sta affogando. Cosa... no, ti hanno tirato direi... su... ti stanno tirando su. Ti hanno arganato. Per 2 metri, perché comunque il ponte è basso. Con un gesto atletico, probabilmente Lieto riuscirebbe a saltare e prendere il ponte. E comunque crei questa... era legato con la corda, io lo tiravo su, sì, su con la corda. La scena molto funny di Mif che cerca di aiutare Nivel, tipo, a tirare, sto facendo qualcosa anche io. Amazing. Crei questa piccolo vulcanino che esce fuori dal fiume e ti tira su e ti fa uscire fuori dall'acqua, arrivare quasi all'altezza del ponte. E quando sei completamente fuori dall'acqua, noti che hai la nutria che ti ha seguito. Cioè, la sua faccia era a questa distanza dalla tua, e quando esci fuori dall'acqua, esci fuori e tutto, la sua faccia rimane a questa distanza, e intorno al tuo corpo sei interamente avvolto da tentacoli. Ah, ecco perché accoltello la nutria. Vabbè. E... mi rolli un D10 per colpire. C'hai un coltello? Dov'è? Il coltello era... no, non ce l'ha. In realtà, è vero. Hai una pistola, i pugni nelle mani. E sparo la nutria. Ti dici per colpire. Con l'acqua che è andato sul... dentro la canna. È una managan, non è una... sì. Ah, è una managan. Ok, ok. Dammi 2 secondi. Tanto mi dici il valore totale che c'hai, per favore. Non mi ricordo cosa devo sommare. Mente. Precisione. Quindi mente più eventuali bonus... ci sono scritti sull'arma. 7, basta, mi pare. Hai maestria armi da fuoco? No, c'hai 0, no, c'hai 0. Di no. E quindi sì, è solo mente, più 2, quindi hai fatto 7. 7. Trismegistus Monster Mega Compendium. Vabbè. Che c'è? Polpo. No, polpo. Ah, ecco. Nutria polpo o polpo nutria? Chi prende il... ma guarda, la prima... scheda che ho pronta la uso, non è che sto a farmi, come si dice? Le nutrie della mia zona, della Lombardia. A parte che anche qua ci sono le nutrie, cioè io dove vado al mare c'è un canale ed è pieno di nutrie, sono bellissime, sono gli animali definitivi. Sì, oh, sì, guarda che bella questa scheda. Sono in campagna, c'hanno le lontane. 2 secondi che ho trovato una scheda che è veramente bella, ma non c'entra un cazzo, però è veramente una bella scheda. E... la teniamo. Ma sì, che cazzo me ne frega me. Ha 7 di evasione. Tu hai fatto 7? Ho fatto 7. Sì, ha una cosa molto improbabile in cui il proiettile gli gira intorno. La nutria gira intorno al proiettile e non ha apprezzato il tuo tentativo. Non era Mitzit Bitzit il sistema? Non ho capito. O non lo è per l'evasione? E non lo è perché è una creatura del cazzo e quindi in teoria se sei un... se c'hai degli equipaggiamenti hitti il numero esatto, colpisci un equipaggiamento e fa robe strane. Se è una creatura, in genere lo ignora e basta. Puoi colpire, no, le parti, se no. Però questo... questo, anche colpendo le parti, non fa nulla, quindi... Sistema sit-bit-sit, come D&D, che è proprio... Se equivale, vuol dire che colpisce. Ok, ok. E in teoria c'è la parata al numero esatto. E la nutria che fa il Perry di Street Fighter. Sì, esattamente, il Perry. E ti ha... Alfa 3. 5, ti missa, vero? Sì. Sì. La nutria prova a morderti e non ci riesce. Non trova un punto mordibile. Metapod contro metapod. Sì. È l'acqua. Raga, io mi sa che però stacco, scusatemi, ma tipo non so perché c'ho un mega sonno, non riesco a seguire sessione. Ok. E l'unica cosa, appena Lieto tornerà su, Adone gli dà un pugno, cioè gli dà proprio il braccio in pancia, non che gli dà il pugno, ma tipo tiene il braccio rigido e glielo dà in pancia. L'aria. Esattamente. E basta. Vabbè, ciao Eddie. Di scusatemi ragazzi. W. Ciao. Grazie. Ciao. Buonanotte. Buonanotte. Abbandonato prima di Teika, non l'avrei detto. E facciamo sto encounter e poi chiudiamo. Mi spiace aver fatto un'ora di sessione scarsa. Vabbè. Io ero disfa. Non l'ho mai sentito. E vorrei sapere cosa fate voi due sul ponte. Io facevo pescatore, tiravo su Adone con la corda. Ok, ci sta. Non ti faccio rollare, succede. Te lo considero come un'azione, quindi ce n'è un'altra. Miss desidererebbe in questo momento avere una sorta di cosa che potrebbe immortalare questa scena. Esattamente, ok. Detta anche fotografia. But... siamo troppo indietro, quindi... quindi se la godrà e basta, no? Tipo... lasci che succeda. Sì, esatto. Fai. Allora, di posizione sotto il ponte, dove sono? Sotto il pontos. E sono? praticamente faccio un disegno, forse ha più senso. Nonostante il mio mouse rotto me lo renda molto difficile. E il ponte in realtà è largo poco più di un metro, quindi non c'è tantissimo spazio tra... la roba e il resto. E Lieto ha creato un'area, una specie di pedana di pietra. E siete messi così, come siete su Roll20. Ok. Allora io. Che altezza sono più o meno dalla. Siete quasi. Sono 40 cm più in basso di te. La pedana che ha costruito è. Poco più, proprio uno scalino più basso del ponte. L'unica cosa è che c'è una ringhiera che vi separa. Sì. Allora prendo la nutria e cerco di tirarla tutti. Allora, un tiro di strength, perché non è un attacco, quindi semplicemente fai un test di sollevare. Ora sì. Faccio il calcolo di quant'è la difficoltà. Tu hai più 7 di sollevare, wow. Ha fatto 26. No, 20. Ah, perché c'hai già il più 7. Ok, scusami. Sì. Che 10 più 3. No, per rollare di nuovo, però. No, ma lui c'ha l'affare che rolla in automatico. No, però dico, ha rollato un di 10. Hai detto C'ha l'affare che se... rolla 10, gli rolla... Sì. Ok. Vedi che c'ha due dadi. Il punto esclamativo alla fine, quando scoppia, ti rolla automaticamente il prossimo. Per come usiamo noi il sistema, dovrebbe essere meno 1, poi. Perché il secondo dado non è... cioè, è il secondo dado meno 1. Perché sennò non possono uscire tutti i numeri. Bravo, ci sta. E quindi 19 è più che sufficiente, cioè proprio glielo strappi di dosso la nutria. E i tentacoli erano molto attaccati ai tuoi vestiti e ai tuoi peli sul braccio, quindi ti fa la ceretta, ma soprattutto ti danneggia i tuoi vestiti. Ok, non l'importantissima spilla della zenita, vai, quella illesa, se Dio illesa. Vuole. Ok, non è successo niente di male. E la nutria rimane in aria, cioè nelle mani di Nibel, con i tentacoli che fanno questa cosa molto... nel tentativo di riprendere Lieto. Ma la nutria quanto è percentuale nutria? Cioè la testa di nutria, il collo è peloso e poi a un certo punto è tipo un polpo peloso e per il resto sono polpo i tentacoli peloso. Sono i tentacoli che hanno la parte di sotto con le ventose e la parte di sopra pelosa. È una delle immagini più che non volevo vedere, tipo è proprio una creatura ignobile. Terribile, terribile, cioè scusate, qualcuno ha un modo di porre fine alle sue sofferenze. Alla fine la lama ce l'avevo io, Bianic. Sì? È la lama istantanea, avevo preso. Ah no, vabbè, è una spell. Sì, è una spell, però ok, sì. Qualcuno ammazza quell'oggetto, vi prego. Non ho nulla su di me. Se volete la faccio morire di paura, però mi ci vuole... Va bene, e mi... faccio la lama. Perché esatto, mana penny. Ma sì. Ma scusami, Nibel, non puoi allungargli il collo come le galline? E ve lo fa tipo... il focoso, come cazzo si chiama... Cos'era? The Lighthouse, che prende il... il gabbiano lo sbatte per terra. Sulla bicchiera, tipo. Se lo vuoi fare, Febbe, va benissimo, non c'è problema. Come preferite? Le statistiche per farlo ce l'ha, mi pare. Sì. Anche perché l'unico altro che personaggio che lo superava le statistiche... era Don Tan, quindi... Posso lo faccio, tipo, perché ci ho sbattuto la testa contro la ringhiera della cosa. Ok, allora ridò il manapenny a Lieto. E... ad ogni bang c'è Biff che si allontana un pochino di più, tipo... I tentacolini che cercano di arrivare a Lieto vengono afferrati dalla manona di Nibel, che poi molla la testa della nutria e inizia a sbatterla con cattiveria e odio contro la ringhiera con full intention di distruggergliela. Non è il gesto. Guardo, si muove ancora, vedo che si muove ancora, la sbatto di nuovo. Questa cosa non è divertente perché il cranio della nutria si spacca, cioè è proprio una roba grottesca, violentissima, c'è cioè sangue ovunque, sì. Schizzi anche cioè... lì è leggermente tipo ok, forse un po' troppo. Forse bastava, cioè, la fai accoltellato. Passa un treno in quel momento e c'è almeno una bambina che vede questa scena dall'oblò del treno e la madre non le crederà mai. Mamma, ho visto un nuovo distruce una polverizzata. E la madre non le crederà mai. Quella bambina era Mary Kay. A cazzo. E... porgo la mano a Lieto per tirarlo su. Ah, grazie, l'afferro e mi tiro su anch'io. E poi passo la nutria, ecco fatto. Quello che ne resta, praticamente. Ok, prego, dimmi cosa vogliamo fare con la nutria. Ormai abbiamo il cadavere a portata di mano, mi sembra uno spreco non usarlo. Sì, no, l'intenzione era esaminarla, ma non è rimasto oltre a esaminarla. Tipo su, guardo, immagino che sia tipo... mi stai immaginando... dei pezzetti di cranio ma che non si identificano più come un cranio e uno stab di un polpo con i peli. E lo sto tenendo. La parte di sotto dei tentacoli è come nuovo, praticamente. On a close inspection del cranio, dei pezzetti di cranio rimasti, ce n'è qualcuno? Cioè... Non è di metallo, cioè è osso. È osso. Lo scheletro di questa creatura è molto strano, cioè... a un certo punto le ossa diventano cartilagini per entrare nei tentacoli, cioè la struttura anatomica andrebbe analizzata con più calma di quello che puoi fare te con un cadavere già danneggiato, mano, squartato. Okay, sì. Però a parte queste aberrazioni che derivano chiaramente dalle mutazioni che ha, non ha niente di quello che avevi in mente tu. Ok. E no, niente di fungino o bioluminescente. No, non c'è nessuna parte di questa creatura che sembri riconducibile a quello che avete in mente voi. Sembra semplicemente una creatura deforme. Naturale, ma... sì. Cioè, non naturale, è una chimera, ma... tipo, cioè, solo una chimera. Solo. È il take di Nibel, perché io non l'ho detto. Se il take di Nibel l'hai detto ad alta voce... Non credo che Nibel ci arriverebbe, in realtà. Ok. Cioè, chiaramente connette che sono due animali visti insieme, però non... non è che ci pensa più di tanto, vede che è un mostro, è cosa da fare. Okay. È più tecnico. Che bene, dietro. Adesso hai più cose in comune con i drogati là, che abbiamo incontrato prima, e indica i vestiti stracci. Adesso li faccio aggiustare dal sarto. Però dopo ho mangiato. E ti presenti così in un ristorante? Assolutamente no. Oh, ok, andiamo dal sarto. Si riparano con la magia i vestiti, mi pare, in questo posto a meno, quindi ci vorrà molto. Non lo so, giudicare, come puoi vedere dal mio aspetto, non ne ho mai fatto utilizzo. Sì, capisci, però tu avevi queste, tira fuori tipo il sacchetto di manapenne, mi fa vedere. Vabbè, quella penso sia la magia più forte di tutte, quindi sicuramente una soluzione la troviamo. Intendevo le monete, sì, infatti, la proprio, la pecunia. La pecunia. Gli sghei. Gli sghei, a posto. È un problema di poveraggine, non di... Mi rolli un D20, Ica, per la nutria. Ti rollo un D20 per la nutria, sì, certo. Grazie. Rolla su nutria, vai. Otto, se vuoi, devo aggiungere qualcosa? No. 8 di nutria. E la pelliccia della nutria la puoi conservare. La squartiamo adesso? Vabbè, sì, dai, taglio lo stamp di testa rimanente dalla nutria e mi tengo tipo i tentacoli. Se la puliamo adesso possiamo sciacquarla nell'acqua e buttare i resti lì e gli altri animali che ci sono nella zona finiranno il lavoro. E allora... Se prima che portarsela intera in giro per la città. Hai gli strumenti o mi sembri tu l'esperto quando la stazione gli lascio la nutria? Purtroppo no, non sono un... Un coltello basta? Posso provarci? Cosa ti servirebbe? Intanto che è affilato, probabilmente si può fare. Un coltello e una superficie piana, suppongo. Ma siamo su un ponte di metallo. Non credo di poter spellarla al meglio. Vabbè, aspetta. Litogenesi è ancora attiva, in teoria. Sì. Ok, gli faccio un tagliere con litogenesi. No, tieni questo. È la pietra. Esatto, pietra. E tieni, questo è il coltello. Specchi un manapenny per fare la lama istantanea o usi Blade Drain? Blade Drain costa... 3 mana. 3 mana, no, figa, no. La lama istantanea, minchia, no. Va bene tutto, però, cioè... Vai, ti segno... Allora, la lama istantanea usata così, dammi un secondo. Puoi scegliere un coltello, una spada, un'ascia, una falce. Coltello, immagino. Coltello, sì, direi che è la cosa più adatta. Può essere usata 2 volte. Posto. E quindi un uso è squartare la creatura e poi ti rimane la lama per un altro uso. È permanente, non ha tempo, quindi me la fio in tasca. Finché non, qualcuno non le fa danno... E quel momento scoppia, però scoppia non come esplosione, fa puff. Sì. Oppure la prossima volta che la usi la forma cede, è una fatta di magia, e quindi fa puff. E allora niente, me ne infilo tipo nel... Sì, hai un uso, te la segno. E la pelliccia di nutria a questo punto, sì. Sì, hai 2 unità di pelliccia di nutria, le metterò a lieto. Darle anche a osso è uguale, non... volete, perché mi sa che io ho lo zaino posso portarlo, quindi diciamo anche non lieto niente. Anche un maestro conciatore. Cosa è successo? Vabbè, ha livellato qualcosa? No, non ho capito. Ha livellato qualcosa? Ecco, l'ho squagliato con successo. Velte, sì, no certo, vi prendete il vostro tempo per farlo con calma. E su questo sistema credo non ci sia quella cosa lì. Mi spiace. Perché era, cioè, c'era veramente hardcore nell'altra cosa, quindi qua non l'ho messa. E niente, ti segno 2 pellicce. Ti descrivo come lo faccio. Allora, incomincio dalla parte centrale che sta tra i tentacoli, infilo il coltello lì e faccio tipo, prendo un tentacolo e passo proprio la lama veloce e tolgo la pelle un po' in maniera rozza. Dal tentacolo procedo alla stessa cosa multiple volte, arrivo dove c'è l'osso del collo e lo recido lì, e quindi rimane praticamente soltanto il corpo con i tentacoli. Guardo Ica e dico, guardo dietro e dico, questo ti serve ancora, vuoi vederlo? Lo prendo e lo lancio in acqua. Perfetto. E poi incomincio a lavorare sullo scuoiare la testa della nutria. Anche lì rimane un po' rozzo, poi col coltello faccio lo scraping della parte e oggi dietro ho imparato una cosa che non volevo imparare. L'epidermide, tolgo le parti di grasso eccetera eccetera, in modo che rimanga più pulita possibile, perché sennò poi si decompone e quindi incomincia a puzzare, già puzza di suo. E ho dell'acqua portata in mano, lì ci arrivo con le mani all'acqua. Sì, ci arrivi al fiume, sì. Se no, altrimenti c'è una piastra. È un bacchetto, okay. di pietra. Ok, mi sollevi l'acqua, fai tipo le robe per io. La bacinella, la bacinella, esatto. E allora lì lavo un po' la pelle, tolgo il grasso rimanente, roba del genere, meglio che posso. E poi nel mezzo di questa cosa succede la roba di Adone che ti tira un pugno a Lieto. Fa un male boia, cioè ha un braccio che è fortissimo. Non è molto veloce, però. Però picchia. Picchia. Okay. E un po', Adone, cosa ne pensi di questa situazione? Non ti può rispondere, ti risponderà tra 3-5 business days. Vorrei sapere cosa fa Mif. Mif è scioccata. Buonanotte, papà. Buonanotte, Mif. Esatto. No. Mif era la nutria, non si fa. Tipo guarda e fa, beh dai, è tipo l'ultima cosa peggiore che io abbia visto. Bene, no, non facciamolo mai più, siete dei mostri, ragazzi. Alla fine non è... il mio piano è molto più semplice, la calare adone. Alla fine non era così tanto diverso da scuoiare un coniglio, tutto sommato. Stavo peggio. E non so se l'hai mai fatto di scuoiare un coniglio, la biologia di questa creatura è molto diversa, cioè avendolo squartato noti che... certo, chiaramente. Che proprio... probabilmente qualche volta gli è capitato di farlo, però in casa non lo faceva lui, certamente. Sì, no, ma anche proprio di macellare un animale, anche proprio per mangiarlo, anche proprio un pollo arrosto, una cosa del genere. Questa creatura non ha lo scheletro, non ha la struttura interna di quell'animale lì, non c'entra niente. Però ha uno scheletro che è completamente diverso, cioè proprio alieno. Alieno credo sia il termine più corretto per quello che ho in mente. E io la wrapperei up qui. Il sangue era normale, era sangue rosso da mammifero. E gli organi interni, anche se disposti in modo casuale, c'erano tutti. Cioè c'erano i polmoni, c'era il fegato, c'erano i reni, l'intestino, eccetera. Quelli c'erano tutti, anche se disposti in modo da riempire il fatto che il suo corpo non aveva la forma di un ratto, diciamo. Ok. E quindi era più bislungo. Non c'era niente in extra, tra l'altro. No, i polmoni avevano delle parti in più, sembravano tipo branchie, quindi probabilmente per respirare sott'acqua. Ok. Ma a parte quello era molto normale, cioè, per assurdo, okay. Era solo disposto in modo strano per riempire un cilindro invece che un... Ok. E io la Come i polpi, uno dei tentacoli era il pene. Non sei riuscito a evincere questa informazione dalle parti squartate. Anzi, l'apparato riproduttore in toto non si capiva se ci fosse. Quegli organi interni lì non c'era. Non c'era nemmeno l'ano, cioè un punto, una cloaca, un punto da cui far uscire gli escrementi, non c'era quella cosa lì. Ah, ecco, tipo dalla parte dove avrebbe la bocca il polpo. Non c'era niente lì. No, era piatto. Era proprio liscio come Candy Barbie. Bello. Molto strano. E bon, basta. Io chiuderei qua la sessione. Bello. Sì. Abbiamo squartato una nutria stasera. Poverina. Grazie.